disco nell'86, le bombe a Tripoli loro fanno i dei, no la mia famiglia con il conto in rosso, anzi senza un conto si sbranano l'osso. Ho ricordi dalle foto, metta a fuoco, pane e latte al massimo, un biscotto, perché la fame è roba che costa, lo si eredita di padre in figlio, fame e lame e lotta. Nella vita tutto è possibile, si cambia casa, siamo già nel 90, l'Italia gioca in cassa, ma mondiali nada, vedo i miei giocare la partita di una vita vara. Gioco con i Lego, slego i soldatini, gioco in strada ammirando eroi della Panini, soldini dei nonni lontani dentro i porcellini, compri scarpe nuove con le vecchie a scuola non ci arrivi. 90 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. 80 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. Ne abbiamo mai vista giù a Palermo, si risucchia mio zio, salito sopra il taxi, finiscono i tempi di crazzi, quartiere abusivo, sorgono i palazzi, casa senza mobili, casa senza porte, abbiamo un tetto giù, ringrazia la sorte, esco presto dal portone, son le prime botte, rientro in casa, niente soldi, sciarra tra marito e moglie, le soglie del dolore son finite, quando credi di morire sono già sparite, le vie del Signore sono finite, una vale l'altra se ti riempio di ferite, mio padre al lavoro alle 5 di mattina, la madre con i nervi a fior di pelle dal giorno prima, alle medie nuova scuola, frequento già la prima, 96 bambocci con la marca più figa. 90 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. 80 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. Con il viso da bambino fino della kinder, ma con lo sguardo fisso freddo di un killer, le nocche dure, 5 dita nella faccia, ci pensi 2 volte, ora sono io la minaccia. Fatto sta che arriva il 2000, zip montati e sgamo fra le mani, 2000 lire a testa e sciagliamo come iene, finché non ci sgami con i tuoi cani. I tempi cambiano e i sacrifici valgo oro, il conto in banca sale, la famiglia tiene sto tesoro. Sto gridando vendetta dentro una caserma, verrà il giorno stronzo che ti punto una beretta. Ora vesto oro tra le dita, polsi al collo, lo faccio alla faccia della fame di sto mondo. Mangio, bevo, fotto perché in futuro dovrò difendere la mia famiglia dal digiuno. Ho tanta fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. 80 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. 80 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome. 80 fame, pianti e grida, 90 gradi ti mette la vita, 2000 le preghiere al Signore, io grido sempre al loro nome.